e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora Nicoletta, siamo scappate via entrambe dal diluvio universale che sta imperversando su Milano, però i potenti mezzi di Radio 24 ci permettono di garantire la diretta pur essendo una a Roma e una a Rimini. Ci sei? Io sì che ci sono e qua abbiamo allora, il sole intanto. Quella Rimini sono io e tu sei quella romana. Allora, lontano io ti parlo... dagli occhi, ma non lontano dal cuore, cara mia Deborina. Allora, do qualche coordinata così con precisione permetteremo ai nostri ascoltatori che vogliono venire a trovarci tra oggi e domani. Spiego dove siamo a Rimini. Siamo in diretta dall'IT Forum, l'International Trading Forum, appunto. È una manifestazione dedicata ai mercati finanziari, risparmio, consulenza, ma soprattutto al mondo del trading online. Siamo alla vecchia fiera di Rimini, al Pala Congressi. Se volete venirci a trovare rapidamente, l'ingresso che dovete varcare è il B. Lo stand è il numero 20 e quindi attenti a non andare alla nuova fiera perché lì fra qualche giorno, Nicoletta, parte una manifestazione dove in realtà potremo anche andare io e te perché penso che saremo ben accolte, Rimini Wellness, visto che tu parli tanto sempre di mantenersi in forma. Anche io parlo e tu, essere... metti in pratica, quindi una coppia perfetta. Allora, e quindi, tu mi hai dato le coordinate, domani ci sarò anch'io lì, in carne e ossa. Ottimo, non guarda che solo... in tanti mi stanno chiedendo di te, quindi ti prego di sbrigarti. Va bene. Vengo di corsa, ma prima ottimo. Facciamo un po' di rassegna stampa, lontane facciamola. Ma vicino? Andiamo. Via, si parte. Allora, tra l'altro, Deborah, una rassegna stampa che prende un po' spunto dai VIP. Iniziamo da un VIP di casa nostra, Flavia Pennetta, la campionessa di tennis brindisina, che è testimonial del progetto dell'IOM. L'IOM è l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Con le sigarette meglio smettere. Un'iniziativa che vuole sensibilizzare in modo particolare i giovani che sui danni del fumo hanno sempre le idee confuse, poco chiare, direi fumose. Il 34% dei ragazzi è convinto che le sigarette non siano così dannose come i medici dicono. Uno su due pensa che il vizio provochi solamente un po' di tosse, magari mal di stomaco. Ma quello che vorrei sottolineare è che 8 ragazzi su 10 pensano che si può iniziare, tanto puoi smettere sia facile. Allora, dato che puoi smettere non è assolutamente facile, sarebbe bene non iniziare. Ma nel caso, sulle nostre pagine trovate tante indicazioni, suggerimenti, oltre all'elenco dei centri antifumo. E dai VIP di casa nostra passiamo ai personaggi famosi da oltreoceano, il cantante Bon Jovi ha aperto nel New Jersey un ristorante dove i meno abbienti si siedono a tavola, non pagano il conto, ma si rendono utile, danno una mano, magari lavano i piatti, si occupano del giardino, perché tutti devono poter cenare al ristorante, sostiene il cantante, soprattutto in una società in cui una famiglia su 5 vive in povertà e dove un americano su 6 non può permettersi il cibo. Tra l'altro il musicista ha al suo attivo vendite globali per 120 milioni di album. Abbiamo inserito questa notizia perché ci sembra un personaggio molto alla cuore denari. E chiudiamo con le recenti dichiarazioni di Tom Hanks, che ai microfoni di Radio Time, vedi che la radio funziona, ha detto: sono stato un idiota totale perché se ho il diabete sono solo io il responsabile, colpa della mia dieta poco sana. L'attore americano è uno dei 246 milioni di persone nel mondo che vivono con il diabete, è un numero che è in aumento, che continuerà a salire. Si parla, pensate, di 600 milioni di persone con diabete nel 2030, una crescita che ha le dimensioni di un'epidemia, si parla infatti di panepidemia, ecco perché è importante lavorare sulla prevenzione. Noi vi aiutiamo a farlo, andate sulle nostre pagine, trovate interviste, indicazioni, consigli. Allora, tra l'altro Nicoletta, stavo anche leggendo, completando la notizia del ristorante di Bon Jovi, che annessi al ristorante ci sono... Sì, no, è carina perché c'è anche la scuola di cucina, la banca del cibo che servi senza tetto. Per cui pensa insomma a quante buone idee di buone pratiche potremmo dare anche a qualche artista italiano. Dobbiamo andarlo a trovare. Esattamente, anche perché Bon Jovi ci piace. Adesso chiusa parentesi, non volevo sottolinearlo ma lo sottolineo. Allora, cominciamo con la borsa per le notizie di denari. La borsa oggi è negativa, qua alla fiera del trading online insomma portiamo notizie negative. Milano sta perdendo mezzo punto percentuale, Francoforte perde più di un punto, Parigi lo 0,48%. Stanno recuperando molti titoli bancari, altri invece scendono di nuovo. I migliori titoli sono Intesa San Paolo, Unicredit guadagnano 2,5 punti, più di 2 punti li guadagnano Mediobanca e UBI Banca. i petroliferi vanno su direzioni diverse, perché Saipem cresce dell'1,75%, mentre Eni e Tenaris stanno perdendo 2,5 punti. Ne parleremo diffusamente ad Investire Informati oggi, che abbiamo portato in trasferta con noi qui all'IT Forum, perché i temi di riferimento del mercato quest'oggi sono i tassi americani. La Federal Reserve ha aperto le porte ad un rialzo nel mese di giugno, e peraltro nel pomeriggio intervisteremo un esponente molto importante della Federal Reserve, l'esponente della Fed di Atlanta, per cui vi racconteremo un po' quali sono le intenzioni della Banca Centrale Americana. Sono sulla bocca di tutti le ultime dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio nel corso della sua diretta Twitter e Facebook. Matteo risponde: per Renzi alleggerire il peso del fisco sul ceto medio e le famiglie è l'assoluta priorità della prossima manovra di stabilità. Stiamo discutendo, ha detto, sul come, staremo a vedere. E proprio mentre noi di Cuore e Denari avevamo in mente di dedicare una delle prossime puntate allo sportello impresa di Equitalia, un'iniziativa speciale dedicata alle partite IVA, Renzi ieri invece che cosa ha detto? Ha espresso un monito piuttosto esplicito: vorrebbe in realtà cancellare Equitalia o comunque riorganizzare molto drasticamente le agenzie fiscali italiane. A proposito di Renzi, le iniziative dell'ultimo anno, il Jobs Act, nei primi 3 mesi di quest'anno ci sono state nel settore privato 1.188.000 assunzioni, con una diminuzione di quasi il 13% rispetto ad un anno fa. Ancora più marcato è il calo se si considerano i soli contratti a tempo indeterminato, meno 33,4%. Sono dati che arrivano dall'INPS e vanno messi in relazione con la diminuzione degli incentivi fiscali, appunto, che si è concretizzata negli ultimi mesi. La differenza fra assunzioni e cessazioni di posti di lavoro resta però positivo anche nel primo trimestre. La differenza resta positiva, più 51.097 contratti stabili. C'è però un crollo del 77% rispetto al dato dell'anno scorso, per cui dati che vanno letti molto accuratamente. Infine, in una settimana, Nicoletta, lo ricorderai, che si è aperta con le dichiarazioni del ministro Lorenzin rispetto alle risposte al crollo demografico che sta affliggendo il nostro paese, arriva una notizia importante per le famiglie numerose. Allora, la legge di stabilità 2015 aveva introdotto un nuovo bonus per le famiglie numerose. Un che bonus sono quelle che hanno più di 5 figli, vero Debora? Tra i 4 e i 5, esatto. In realtà questo bonus di cui si parla nella legge di stabilità riguarda le famiglie che ne hanno 4 e quindi l'INPS ieri ha finalmente, la misura era pronta ma mancavano le istruzioni operative dell'INPS che sono arrivate proprio nelle ultime ore, quindi questo bonus, io intanto do le indicazioni sommarie e poi ci faremo una bella puntata apposita, spetta ai nuclei familiari con almeno 4 figli minori, ISEE inferiore a 8.500 euro, devono quindi essere famiglie veramente povere, magari se si potesse alzare questo parametro saremmo anche contenti. Il primo pagamento da parte dell'istituto verrà effettuato nel mese di luglio, sarà di massimo 500 euro, però noi la prossima settimana vi daremo tutti i dettagli e tutte le istruzioni per poterne fare richiesta. Se per amore io perdo la testa, la lascio cadere dal collo perché ho le mani per prenderla mentre... Allora, la testa teniamola lì dov'è? A volte è anche il tempo, no? A disturbarci. Debora ci ha raccontato, a Milano piove, qua a Roma ce la caviamo bene, Rimini così e così. A volte i cambiamenti di tempo, oltre a buttare giù il nostro umore, possono accendere il mal di testa. E ne parliamo oggi perché vogliamo chiedervi che cosa fate voi quando avete mal di testa. State al buio, prendete un analgesico, resistete, bevete un caffè, cercate di dormire, uscite a fare 2 passi e nel frattempo voi avete capito che cosa scatena gli attacchi? La testa scoppia quando vi arrabbiate, mangiate pesanti, siete preoccupati, avete dormito male o forse basta un profumo, un odore intenso o il tempo per l'appunto, perché tante teste, tante idee, tanti tipi di mal di testa. Lo abbiamo detto tante volte, il mal di testa è un disturbo democratico, è diffuso, invalidante, spesso è sottodiagnosticato e maltrattato e che fa spesso i conti con delle leggende metropolitane che spesso non hanno alcun fondamento ma che ci costringono a volte a soffrire di più per soffrire di meno. C'è ad esempio chi per toglierselo di torno ha deciso addirittura di modificare la dieta, come spesso accade quando leghiamo un disturbo a quello che mangiamo. una rinuncia, un po' come le ciliegie, no? Una rinuncia tira l'altra, si inizia a levare, che so, il cioccolato non lo mangio più perché mi fa venire il mal di testa, poi invece provi il caffè, dice mi faceva bene, no, forse mi fa male, poi si prova con a togliere il glutine e lievite, poi alcuni tipi di verdure, insomma un disastro, il mal di testa non migliora, in compenso lo facciamo venire a chi ci vive accanto o a chi ci invita a cena. E a proposito di cena, non a cena ma a tavola, direi questa mezza mattina ci sediamo col professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, un grande amico di Cuore Denari che ha appena pubblicato Mangia sano che ti passa. Buongiorno professore. Buon appetito anche, buongiorno a tutti. Grazie, è un po' presto ed è un po' tardi, però insomma ci prepariamo, sono le 10.46 ed io è tempo secondo di andare... caffettino me lo sono appena fatto comunque, volevo dirti, anche senza di te. Bene, allora intanto poi parleremo anche del caffè con il professor Barbanti, esatto. Anzi fermiamoci, la linea va alle informazioni sul traffico, il tempo di un caffè ancora meno, il primo sorso di caffè poi insieme col professor Piero Barbanti vediamo che cosa mettere sul piatto. Cuore e denari. Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Allora la testa, noi cerchiamo di non perderla, intanto Deborah ci localizziamo, tu sei a Rimini al Litiforum, una manifestazione che aiuta a capire come affrontare i mercati finanziari, come investire i propri risparmi, direi due temi che danno non pochi grattacapi. Io sono qua comoda e tranquilla a Roma, ma ti raggiungerò tra poco e cerchiamo di non perdere la testa. Ci aiuta il professor Piero Barbanti che è qua per raccontarci che cosa possiamo mettere nel piatto. Il suo libro Mangia sano che ti passa fa un po' il processo ad alcuni alimenti, ma professore andiamo subito alla fine, il verdetto qual è? Alla fine vietato vietare? Alla fine il verdetto è vietato vietare e il titolo del libro sia considerato non come un'esortazione ma un imperativo e soprattutto mangia, non più levare i cibi, mangiare, inserire anche altri cibi. Finita l'epoca oscurantista in cui il paziente usciva dagli studi medici con gli elenchi ridotto a mangiare pane e acqua. Ovviamente però c'è il sano, il secondo termine, quindi saper scegliere, ma il messaggio fondamentale per chi ci ascolta è che il mangiare è uno strumento per combattere il mal di testa e guai, sottolineo guai, vietare in maniera non scientifica alimenti perché come si vedrà la maggior parte sono delle credenze popolari che sono state smentite dalla scienza. Professor Barbanti, chiediamo ai nostri amici che ci stanno ascoltando se hanno magari individuato degli alimenti che ritengono responsabili dei loro attacchi di mal di testa o ne hanno trovato altri che aiutano il mal di testa a spegnersi, ad attenuarsi. 800 24 00 24. Professor Barbanti, ci sono, e noi lo abbiamo saccheggiato dal vostro libro naturalmente con il permesso degli autori, per 21 giorni noi vi proporremo l'alfabeto perché ha come, andiamo a sentire, alcol, ogni gruppo di alimenti, ogni alimento è stato analizzato e ci sono delle indicazioni precise, istruzioni per l'uso, andiamo a sentire. A come alcol. Gli alcolici possono scatenare mal di testa in tutti, ma soprattutto negli emicranici. La cefalea può comparire entro 3 ore dalla bevuta o fra le 5 e le 12 ore successive. In quest'ultimo caso le bevande più a rischio sono il vino bianco e i liquori scuri come il whisky o il bourbon. Professor Barbanti. Beh, intanto è una notizia che è così, è un po' rivoluzionaria. Tutti abbiamo per lungo tempo criticato il vino rosso. Il vino rosso è meno a rischio del vino bianco. Per la verità l'emicranico sta più attento al vino bianco che al vino rosso, però siamo rimasti sorpresi, riguardando la letteratura scientifica, sapere che i liquori scuri, il whisky è uno di questi, sia più a rischio di un liquore chiaro e noi in Italia, specie nel nord Italia, utilizziamo la grappa. Ricordandoci che i liquori vanno utilizzati con parsimonia, è comunque un consiglio molto tecnico. Fortuna che il whisky è una produzione prevalentemente inglese, scozzese o comunque nordamericana nel Barbour, però questo spiega come anche il soggetto emicranico possa, io vedo in questo il messaggio positivo, sapersi divincolare e poter utilizzare modiche quantità di alcolici conoscendole, non privando il senso positivo del resveratrolo contenuto nel vino rosso e nel frattempo però evitare grandi errori, soprattutto le associazioni. Le associazioni, perché se comincio con un aperitivo che contenga anche del vino bianco e poi dopo mi faccio anche un liquore scuro alla fine della cena, beh insomma dopo non è stato il formaggio che ho mangiato, è stata la somma di piccoli errori. Deborah, hai sentito quante informazioni sono contenute Guarda, in questo libro? Ne scopriremo. Sono estremamente attenta perché io non sono una persona che ammala frequentemente di mal di testa, per fortuna non ne ho, però comunque potrebbe anche essere un problema all'agguato, no? A seconda delle abitudini alimentari. Ero colpita dalla questione della lettera H delle indicazioni date dal professor Barbanti, che sta per happy hour. Che cosa possiamo dire a proposito di questo? Perché faremo l'alfabeto, no? Dire che felice è sicuramente l'oste, il ristoratore, perché a parte che non si capisce come mai l'happy hour negli Stati Uniti volesse dire ora a buon mercato in cui sbavazzare e mangiare, e in Italia invece sia ora felice per chi te lo vende. Ma l'happy hour, se sei Beh, vede, tante teste anche lì, tante teste, tante lingue, diversi certo. significati. Però ecco, l'happy hour per l'emicranico o l'abitudine cosiddetta della pericena è un qualcosa di drammaticamente sbagliato. Sottolineiamolo, per l'emicranico, magari per l'emicranico professionista, come amo dire io. Per quale motivo? Intanto comincia a bere piccole quantità di alcolici, ma a stomaco vuoto, quindi lo assorbi prima. Secondo, spalti l'orario del mangiare, in qualunque caso. Non sono noccioline, più spesso sono tartine o pizzette varie. Questo vuol dire che mangi prima, poi eviti di mangiare dopo, e l'emicranico patisce questi sfasamenti nel pit stop energetico. Terzo punto, il mangia sano allude al fatto che i prodotti dovrebbero essere prevalentemente freschi. Ora, anche le migliori gastronomie non credo che la facciano espresso un minuto prima la pizzetta, quindi insomma, se consideriamo che poi queste abitudini diventano virali, diventano una maniera per dire esisto, beh, l'emicranico pensi anche di ristabilire qualche vecchia abitudine, lasciando l'happy hour per condizioni particolari, magari in estate, ma non ne faccia una sua motivo di vita, e alludo in particolare agli apericena che rappresentano ormai un momento per fare affari, sia di cuori che di denari. È vero, sia di cuore che di denari. Professor Barbanti, continuiamo subito dopo il GR e continueremo a parlare del processo degli alimenti, ma in un minuto ci dice quelli che sono assolti? Ah, assolti benissimo. Allora, perché il fatto non costituisce reato, cioccolato, mangiatene a bizzeffe, non ha alcun problema. Per insufficienza di prove i formaggi, perché quelli incriminati non sono i formaggi freschi e semistagionati italiani, ma rare forme come quelli inglesi e nordamericani, e soprattutto la frutta secca. La frutta secca è salvifica per i cardiologi, ma salvifica anche per la testa, perché contiene una serie di sostanze, tra le quali il famoso magnesio o il coenzima Q10, che rende il cervello refrattario al mal di testa. Quindi si figuri, un cioccolato con le nocciole purché è una cosa magnifica. Allora noi ci fermiamo, diamo la linea naturalmente al nostro GR, ritorniamo insieme al professor Barbanti. 800 24 00 24, ci si è già prenotato Francesco da Roma, ci occuperemo di lui subito dopo il GR, vi aspetto. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, Deborah. Eccoci qua, siamo pronti. Io da Rimini sto scaldando i motori per parlare di mercati e trading online, te lo dico già. Un po' da far venire il mal di testa, effettivamente, ma proveremo a rendere lieto il tema. Perché? Perché noi, per i 12 milioni di italiani che soffrono di emicrania, abbiamo una dieta ad hoc. La stiamo commentando con il professor Piero Barbanti, che con Emilio Irillo ha scritto Mangia sano che ti passa. Do le indicazioni, me le state chiedendo via SMS, ed edito da CIC Edizioni Internazionali. Professor Barbanti, eccoci di nuovo qua insieme. Eccoci di nuovo. Sì, processo. Allora, è un libro, io vorrei sottolineare, estremamente pratico. L'idea è geniale, professore. Estremamente pratico, e in cui a voi avete sottoposto a processo scientifico il ruolo dei cibi nel mal di testa. Ce ne sono alcuni assolti, alcuni condannati, ma parlate anche di alimenti che giocano un ruolo preventivo nei confronti del mal di testa. È verissimo, perché la nutrizione si sa che è la base per prevenire la maggior parte delle malattie cronico-infiammatorie, includendo dentro i tumori e malattie cardiovascolari. Ma il cervello emicranico, come ho detto in una riunione di qualche giorno fa, è come avere in testa una Ferrari, tra l'altro guidata non da uno come me che guida come un impresario funebre, ma da Sebastian Vettel, con però il serbatoio di una vecchia 500. E su questo meccanismo, su questo disaccoppiamento, grande potenza del motore, scarsa produzione di energia, che si scarica quindi l'attacco. E quindi sapersi nutrire bene, nutrirsi in primo luogo, evitare il digiuno, evitare le restrizioni caloriche auto fatte da sé senza motivo, ovviamente gli eccessi non vanno bene, può determinare un miglioramento consistente. Ci sono anche meccanismi di cui parliamo nel libro molto più sofisticati, come per esempio la prospettiva di curare mediante gli alimenti, quelli che noi utilizziamo normalmente, quella condizione di infiammazione cronica di basso grado, parolaccia per esprimere la condizione che sottende il cervello emicranico nei suoi vasi, per esempio, nelle sue terminazioni trigeminali. Quindi puntiamo sul potere curativo del cibo. Ritorniamo al messaggio di Ippocrate. Certamente sì, e anche il fatto che sono già ormai noti delle sostanze iperconcentrate che dal cibo... io ho un'interferenza, ma non è il mio telefonino che è spento. No, perché... perché sennò io e Deborah la sgridiamo, vero? Ha detto... no, io non credo di essere neanche da qua, quindi vediamo adesso. Si è placato tutto. Sì. Dicevo, è già noto, ha avuto un po' di mal di testa anche lui. È già noto l'uso di una sostanza, ad esempio la riboflavina, che è contenuta per esempio nelle alici, ma a 263 volte il fabbisogno giornaliero, ha la capacità di prevenire l'emicrania. Ma pensiamo al ginkgo biloba, certo non è nella nostra dieta, però è un'altra dei rimedi che può, via nutraceutica, venire a garanzia della nostra emicrania, una sostanza naturale che blocca l'eccesso di eccitabilità dovuta al glutammato sulla corteccia cerebrale e induce le piastrine ad essere un po' meno appiccicose, fatti un po' più in là. Le piastrine durante l'attacco emicranico liberano questo PAF, che non è un sasso nello stagno, ma un fattore di attivazione piastrinica che poi fa scatenare un mezzo patatrack. Quindi nel libro c'è questo e altro, ma se mi permette di dire, c'è anche la spiegazione di quello che è il mal di testa, di quanto è diffuso, perché i pazienti e i lettori, il libro è 540 pagine, si informano su internet altrimenti, e non è sempre internet una buona fonte di dati veri. Professor Barbanti, se un nostro ascoltatore proprio in questo momento accusa mal di testa, si è svegliato con la testa dolorante, ha provato a prendere il caffè, magari ha preso anche l'analgesico e ha male, lei che cosa gli suggerirebbe di prendere, di mangiare in questo momento? Beh, allora intanto dipende se ha nausea o non ha nausea, perché se lui ha già nausea, ahimè, è troppo tardi e quindi non rimane che artigianalmente forse mettersi del ghiaccio, vasocostrittore e analgesico sulla testa. Viceversa, se avesse la sensazione di avere un iniziale problema di mal di testa, gli suggerirei di vedere se ha fatto la colazione o ha preso solo il caffè, perché questo disaccoppiamento tra l'energia prodotta molto bassa e la... eccitabilità del cervello molto alta richiede un supporto energetico, quindi gli direi per esempio di mangiare degli zuccheri, di prendere magari un secondo caffè zuccherato. Attenzione con i caffè, perché sopra i 3 caffè espressi al giorno l'emicranico se la va a cercare la rogna, però anche un caffè doppio, se ne ha preso uno ne può prendere un secondo zuccherato, l'idea del caffè col limone è solo un vecchio retaggio della medicina della sofferenza. Infatti è pure cattivo. Ma noi continuiamo ad occuparci del mal di testa, perché oltre agli alimenti è importante anche raccogliere le informazioni sul nostro mal di testa. Spesso non sappiamo dargli un nome, la diagnosi ce la facciamo noi, diciamo mal di testa perché sono preoccupato, perché sono stressato, perché ce l'aveva la mia mamma. Adesso c'è una campagna che ci invita proprio a mettere la testa nel nostro caso, sul nostro mal di testa. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Pietro Cortelli. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Ciao Piero. Allora, ecco, vede, una bella carambata a Radio 24, ordinario di neurologia all'Università di Bologna, presso l'IRCCS delle scienze neurologiche di Bologna e presidente dell'Associazione Neurologica Italiana per la ricerca sulle cefalee. Allora, due esperti che ci aiutano a venire a capo del nostro problema. Professor Cortelli, una campagna che aiuta proprio le persone che soffrono di mal di testa ad affrontare il problema e quindi a raccogliere le informazioni. Questo è il primo passo. Infatti anche il tema che è stato discusso fino adesso e che ho ascoltato con piacere riconduce al tema delle informazioni, cioè al tema di ricondurre sostanzialmente un dolore disabilitante periodico a una serie di informazioni utili per il medico che poi potrà aiutarlo. Senza queste informazioni è molto difficile fare, diciamo, prima ordine nello stile di vita, come prima avete discusso, e poi eventualmente, quando ce ne fosse bisogno, scegliere poi il farmaco giusto per la persona giusta nel momento giusto. Per fare questo abbiamo pensato, è una, diciamo, joint venture con la Angelini e l'ANICEF, cioè la società di cui attualmente sono presidente per lo studio delle cefalee. L'idea è quella di creare un'app, e l'abbiamo creata con una serie di passaggi piuttosto semplici ma nello stesso tempo completi, per cui effettivamente alla fine si riescono a raccogliere tutte le informazioni che da una parte nel tempo dimostrano la tipologia del mal di testa del soggetto in questione, e dall'altra parte, quando queste informazioni verranno presentate al medico, possono essere di grandissima utilità per, appunto, districarsi tra le varie possibilità terapeutiche che ci sono. Questa è un'app che si può scaricare gratuitamente in tutti i sistemi operativi, sì, dei principali smartphone che abbiamo in giro. La tecnologia dà una mano, insomma, Pietro, professor Cortelli. Sì, qui credo che, insomma, io sono abbastanza anziano per non essere troppo tecnologico, però devo dire che i pazienti questa cosa l'hanno sempre cercata, e adesso quelli che l'hanno provata, perché si può scaricare, insomma, da una settimana. È facile. È facile, sono contenti, anzi li tiene in memoria una serie di informazioni che altrimenti... Ecco, una sorta di diario, perché, no, che ci fa... Allora, esatto. Io vi saluto, ma Deborah, ti passo subito la linea, perché così ormai la nostra testa, abbiamo mangiato bene, abbiamo capito che cosa dobbiamo fare, non sottovalutare il problema. Devo capitalizzare il tuo lavoro. La tecnologia, e adesso tocca ai denari. Grazie al professor Cortelli e al professor Barbanti. Buona giornata. Grazie molte. Grazie Nicoletta. Prendo allora il timone naturalmente, per cercare di non farlo venire il mal di testa con i temi di mercato. Noi in realtà cerchiamo sempre un po' di rendere comprensibili i temi finanziari ai nostri ascoltatori, e naturalmente lo facciamo anche in questa occasione di Rimini, come anticipato appunto all'inizio, con i nostri ascoltatori. Ai nostri ascoltatori, siamo ospiti dell'Investment and Trading Forum edizione 2016. Oltre ad osservare cosa bolle in pentola qui in questa grande manifestazione, cosa stanno peraltro facendo anche i broker, gli intermediari finanziari che propongono nuove soluzioni tecnologiche per tutti gli appassionati del trading online, non possiamo naturalmente non monitorare anche il tema mercati, perché qui notiamo da qualche giorno un ritorno di nervosismo. I mercati sono tornati ad essere abbastanza volatili, l'ossessione generale è quella per i tassi di interesse. Le trimestrali che sono state diffuse fino alla settimana scorsa sono un po' in chiaroscuro, non tutte le società marciano come dovrebbero. Il petrolio ha ripreso a salire, ieri era